io, i miei fratelli vicini, mille cammini, percorsi uniti verso stesse strade, stessi fini. Ci uniscono, motivano, ci spronano ed eliminano. Quando l'unione è vera, ogni senso di pericolo, scritta nero inferno, lo testimoniano in strada. Con la mia gente a fianco, cazzo vuoi che m'accada? Ora è impossibile allontanare le nostre sorti, e ciò che ci colpisce ci rende solo più forti. I miei fratelli, la mia salvezza, la certezza. Dimmi tu in cosa credi, il mio legame non si spezza. Mille strade percorse assieme, nel male e nel bene. Compagni in vittoria, consolatori delle mie pene. Mantiene sta gente compatta, questo legame adesso. Combatto compatta ad una milizia vera spesso. Trovato il mio riparo da tempeste, assieme a queste teste calde di chi indossa la mia stessa veste. Promesse mai tradite, vite unite fra salite ripide, poche persone amiche, dunque mai sparite. Di te che l'amicizia scema, venite un po' già al freddo dell'inverno. Chi lo sosteneva dopo sclera, perché il legame scalda, vento freddo che ci assale, che è rimasto tale quale. Beh sì, potesti mognare, vale la pena spendere parole d'amore per quelle poche persone che ne comprendono il valore. Di sentimenti puri, chi ci ritiene maturi, non comprende l'unione per chi ci sfida auguri. Chi non si accorge che è l'amore che ci porta avanti, soccomberà sotto i colpi di colonne portanti. I miei fratelli vicini, mille cammini, percorsi uniti verso stesse strade, stessi fini. Ci uniscono, motivano, ci spronano ed eliminano. Quando l'unione è vera, ogni senso di pericolo, scritta nero inferno, lo testimoniano in strada. Con la mia gente a fianco, cazzo vuoi che m'accada? Ora è impossibile allontanare le nostre sorti, e ciò che ci colpisce ci rende solo più forti. I miei fratelli, più forte di prima ogni giorno. Più il tempo che passa, più siamo pronti all'inverno. Uniti in mille vicoli, pronti a mille pericoli. Rincorriamo uguali, fini, fini uniti in gomitoli. Prima un legame stabile, ora un'unione inscindibile. Ovviamente fratelli nel momento difficile, quando ho perso fravvivo pure in giro senza fini. Basta la vostra vista per trovare i miei motivi, per percorrere strade deserte, quali deserte. Con i miei fratelli a fianco non ci sono scelte incerte. Da tempo ormai facente parte di un'armata determinata. Io e fratelli porvimi casa su casa. Ogni radar capta l'emozione di una stirpe adatta, di un assetto unito in viaggio verso la sua vetta. Aspetta, chi in debito di fiato, condottieri come ieri, oggi più seri, perché con di fronte motivi veri. Ne rimarranno pochi, già molti l'hanno scordato, ma chi resta vero alla fine raggiungerà il suo fine. Disattiverà le mine su un percorso conquistato, su un percorso conquistato. I miei fratelli vicini, mille cammini, percorsi uniti verso stesse strade, stessi fini. Ci uniscono, motivano, ci spronano ed eliminano. Quando l'unione è vera, ogni senso di pericolo, scritta nero inferno, lo testimoniano in strada. Con la mia gente a fianco, cazzo vuoi che m'accada? Ora è impossibile allontanare le nostre sorti, e ciò che ci colpisce ci rende solo più forti. E io, i miei fratelli, la ragione dei passi, mossi in tempi falsi fra mille errori ed incesti. Dolori in giorno amari, consolati dai miei cari fratelli, sempre a fianco nei momenti più duri. Colpiti da mille tempeste, usciamo più forti. Lo scudo è più efficace che mi protegge dai colpi. Molti stolti non comprendono l'unione, ma molti volti sono rimasti uguali, ed è questo il vero valore. Sole di giorno e di nuvole, quando l'inquietudine assale, sono le uniche persone in grado di comprendere. Ora io non mi voglio arrendere, non voglio che il legame che ci unisce ora finisca nelle tenebre. Non ci credi bene, allora mo prova a colpirci, ma non puoi indebolire questa unione. Prova a dirci che quello che ci unisce non ha senso e finisce, ma un legame come il nostro forte, quindi non sparisce. Le salite e mille ostacoli ci infondo solo voglia, perché dopo queste supereremo sta soglia. Da tempo do senso al cammino, coi fratelli mai scomparsi, con loro so che non ha più senso fermarsi. I miei fratelli vicini, mille cammini, percorsi uniti verso stesse strade, stessi fini. Ci uniscono, motivano, ci spronano ed eliminano. Quando l'unione è vera, ogni senso di pericolo, scritta nera inferno, lo testimoniano in strada. Con la mia gente a fianco, cazzo vuoi che m'accada? Ora è impossibile allontanare le nostre sorti, e ciò che ci colpisce ci rende solo più forti. G. I miei fratelli. You're my blood, my motherfucking heart. My peeps, I truly care, 'cause without some of them I wouldn't be.